City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo a Trani questa sera per parlare di TRIP. TRIP sta per Technics Recovery Innovative Printable e dà il nome alla startup di cui parliamo stasera, che nasce con l'obiettivo di valorizzare attraverso la stampa 3D gli scarti dell'industria del marmo. Per parlarcene, in linea con noi c'è Claudia Marciano, che è cofondatrice appunto di TRIP. Buonasera, buonasera Marciano. Buonasera, buonasera a tutti. Allora senta, la vostra idea nasce da intanto un'esigenza, quella che avete lì, di trovare un'applicazione per questo materiale di scarto. Sì, diciamo la startup nasce appunto da un problema ambientale, quello dell'ipersfruttamento del suolo. Non so se tutti sapete, ma da dati estratti dal rapporto di Cave e Legambiente, il materiale cavato in Italia ammonta a 86 milioni di metri cubi, che tradotto in scarti vuol dire 20 milioni di metri cubi, ossia dal blocco di marmo il 25% viene buttato. La nostra startup nasce nel territorio tranese, nonché importante bacino lapideo nazionale. La nostra provincia detiene, si pensi, il primato di provincia con la più alta concentrazione di cave in relazione al territorio. Addirittura abbiamo una cava ogni 8 km quadrati. Impressionante, impressionante. Quindi circa il 20% del marmo che viene prelevato dalle cave in seguito alla lavorazione diventa uno scarto. E voi partite da questo scarto e che cosa ci fate? Allora, noi partiamo, stiamo parlando di rifiuti polverulenti, e quindi quelli prodotti da processi di taglio e levigatura del marmo, che vengono fuori dall'impianto di chiarificazione dell'azienda lapidea sotto forma di fanghi. Questi impianti sono presenti in tutte le aziende lapidee. Insomma, viene usata l'acqua per abbattere la polvere e naturalmente vengono fuori dei fanghi. Voi prendete questi fanghi. Prendiamo questi fanghi, li ritrasformiamo in polveri, a seconda della granulometria riusciamo a realizzare oggetti molto piccoli o oggetti molto grandi. La nostra miscela, diciamo, si esplicita sotto forma di bobine, parliamo di granulometria piccola, o sotto forma di fluido denso, pensando a oggetti più grandi. Ecco, quindi questi scarti di marmo vanno a formare o il classico filo da stampa, quindi un filo da stampa fatto perché voi mescolate questi scarti di marmo, circa l'80% di questo materiale da stampa risultante fatto con gli scarti di marmo. Che cosa c'è? L'80% è polvere, sì. In più inseriamo delle fibre e dei leganti organici, con possibilità poi di post lavorazione. E quindi se parliamo di bobina, questa può essere levigata, insomma, è ritrattata, mentre se parliamo di fluido denso, che insomma, se vogliamo paragonarlo, può essere paragonato a un premiscelato adatto ad essere estruso, e può subire i trattamenti di post lavorazione come una lastra di marmo comune. Ecco, quindi da una parte l'applicazione è per la classica stampante da banco, diciamo, no? Sì. Che può utilizzare stampante a filo. La seconda applicazione invece in ambito edilizio, lì ci vuole una mega stampante, no? Lì ci vuole una stampante molto più grossa. Noi abbiamo realizzato dei prototipi con una in scala. Ecco, parliamo di stampanti che si stanno sviluppando, ci sono molti progetti in corso di sviluppo di queste stampanti che in pratica sono dei carri ponte o sono delle gru, che hanno un estrusore in cima che permette di creare oggetti di grandi dimensioni, grandi come edifici al limite. Diciamo, il nostro competitor che abbiamo individuato è un'azienda cinese che stampa, però utilizzando scarti cementizi, stampa le case. Perfetto, ecco, benissimo. Ecco, quindi le applicazioni al momento quali sono? Sono un po' a due estremi, se ho ben capito. Sì, le applicazioni sono rivolte all'industria del design, se parliamo di bobina, e l'industria delle costruzioni, pensando a questi premiscelati che possono essere estrusi. Questo vostro approccio può essere esteso anche a altri materiali oltre al marmo? Immagino di sì, anche perché già mi ha detto che c'è qualcun altro che lavora con un approccio simile con gli scarti di cemento. Sì, sì, le applicazioni sono molteplici. C'è possibilità di fondere il nostro materiale e il nostro know-how con altri scarti. Perché potrebbero venirne fuori oggetti anche con un'estetica molto diverse, particolare, no? Immaginando di incorporare materiali opportuni. Allora, veniamo un po' alla situazione, chiamiamola così, della vostra startup. A che punto siete? Tanto se avete dei brevetti. Sì, noi ad aprile 2016 abbiamo presentato domanda di brevetto industriale per l'impianto di raffinazione e di stampa, nonché della miscela ecosostenibile. Adesso ci è arrivato il rapporto di ricerca e siamo in attesa, insomma, della pubblicazione del brevetto vero e proprio. Ecco, e a questo punto, per andare avanti, al di là appunto del completamento della procedura di brevetto, su cosa state lavorando? Quali sono i vostri bisogni? Sì, attualmente stiamo lavorando sulla linea improntata sul design, quindi quella che tratta le bobine. Per la produzione del materiale fluido denso abbiamo bisogno di, stiamo cercando, insomma, dei finanziamenti per realizzare un impianto pilota che ci possa permettere di avviarci, insomma, all'industrializzazione. Va bene, grazie Claudia Marciano. Grazie, arrivederci. Ebbene, prima di lasciarci c'è il tempo di dare qualche ulteriore notizia, e allora forse è il caso di ripercorrere un po' i molti tentativi che si stanno facendo in questi anni, molti esperimenti più che tentativi che si stanno facendo in questi anni per quanto riguarda questa possibilità, quella di stampare addirittura delle case in 3D. L'idea può sembrare balzana, in realtà ci sono moltissimi che stanno percorrendo questa strada, e sono almeno una decina ormai le costruzioni significative, di dimensioni significative, che sono state o si stanno realizzando attraverso la stampa 3D. Stiamo proprio parlando di utilizzare quindi una grande stampante 3D, che può essere un carro ponte oppure può essere una gru o un oggetto di questo genere, che maneggia appunto un estrusore che disegna centimetro dopo centimetro una intera abitazione. Immaginate che disegna proprio anche la sezione dei muri, creando pieni e vuoti. E allora dicevamo, sono almeno una decina i progetti già completati o in fase di completamento. Ecco, tra le sperimentazioni da segnalare c'è senz'altro quella che si sta svolgendo in questo momento ad Amsterdam, in Olanda, dove si sta costruendo un edificio di oltre 1000 metri quadri, 1110 metri quadri. La costruzione è partita quest'anno e fa uso di un 3D printer, di una stampante 3D sviluppata da un marchio italiano, D-Shape, fondato da Enrico Dini. In questo caso la stampante produce dei blocchi 6 metri per 9, fatti sostanzialmente di cemento, che poi vengono assemblati in loco. Un'altra sperimentazione simile, sempre ad Amsterdam, riguarda invece la costruzione di un edificio largo 6 metri ma alto 16 metri, anche questo in costruzione nel corso di quest'anno, da parte in questo caso dello studio di architettura DUS. Un'altra segnalazione che volevo farvi è quella che riguarda invece Apiscor, che è un'azienda russa in questo caso, che l'anno scorso ha completato la costruzione per la prima volta di questi moduli di 38 metri quadri interamente realizzati attraverso una stampante 3D. Qui la cosa assolutamente eccezionale è il tempo di costruzione, meno di 24 ore, e ancor di più il costo, perché questa compagnia afferma di essere in grado di offrire questi moduli che vengono stampati direttamente sul terreno da una sola grande stampante 3D simile ad una gru, dicevo, alla cifra sorprendente di circa $10,000, compresi gli arredi. Quindi insomma un'abitazione di circa 40 metri quadri realizzata da zero in 24 ore a $10,000. Sembra qualcosa di assolutamente incredibile, ma questa è la direzione nella quale stiamo andando. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata, rimanete con noi.